non è una manovra insegna della giustizia sociale, ma una manovra insegna dei favori agli evasori fiscali quando si porta il contante da 1.000 a 5.000 euro, dei favori ai ricchi quando si prevede una flat tax incrementale sui redditi alti sostanzialmente, è una legge dei favori ai costruttori, quando si costruttori e devastatori del nostro ambiente, quando si rimette in cantiere per l'ennesima volta il ponte sullo stretto. È una legge, diciamo, che dice poco e che soprattutto sul terreno della lotta alla povertà fa una cosa estremamente grave, perché mette mano al reddito di cittadinanza restringendone l'applicazione e quindi dando un colpo a uno degli strumenti che pure con tanti difetti in questi mesi, in questi anni ha avuto il merito di arginare la povertà nel nostro paese. Quindi il giudizio è totalmente negativo. Sono 35 miliardi, di cui due terzi finanziati in debito. Una cosa che mi ha colpito invece è che la vostra proposta è quasi del doppio, di quasi 60 miliardi, e non fa debito. Sì, per un motivo molto semplice, che noi facciamo una manovra all'insegna della giustizia fiscale, nel senso che i ricchi non pagano mai, gli speculatori non pagano mai, chi ha grandi patrimoni non paga mai, e qui bisogna invece, in una situazione di grande difficoltà come quella che stiamo vivendo, bisogna dire un'altra cosa, che chi più ha più deve pagare, e quindi noi nella nostra manovra riprendiamo le proposte che abbiamo formulato nell'iniziativa Tax the Rich, e quindi c'è un maggiore introito nelle casse pubbliche, se fosse approvata la nostra manovra, derivante da queste azioni di giustizia fiscale che prima ricordavo. Poi noi proponiamo il taglio delle spese militari di almeno 3 miliardi e naturalmente, diciamo, tutte queste risorse vanno a finanziare interventi importanti nel welfare, nella riduzione delle tasse ai redditi medio-bassi, alla transizione ecologica, insomma l'idea di un modello di sviluppo diverso che non è quello che abbiamo conosciuto in questi anni e che con questa manovra rischia di essere ancora di più peggiorato, perché all'insegna della devastazione dell'ambiente, dei privilegi fiscali, una manovra, diciamo, non certo all'insegna della giustizia sociale. Torno un attimo sul taglio alle spese militari, perché non è solo una questione per avere risorse, ma è anche una visione rispetto al conflitto, ad esempio quello in Ucraina che stiamo vivendo. Ma sì, nel senso che si parla tanto di armonizzazione delle spese per la difesa in ambito europeo, di cooperazione militare in ambito europeo. Noi abbiamo una spesa militare che è 4 volte quella che noi intendo come europei, abbiamo una spesa militare che è 4 volte superiore a quella della Federazione Russa, quindi non c'è un problema di squilibrio, diciamo, delle armi in dotazione o di sistemi d'arma, delle infrastrutture. Il problema vero è che c'è una duplicazione, una sovrapposizione di strutture in strutture tra paesi che sono alleati, che cooperano, che fanno parte dell'Unione Europea, quindi l'Unione Europea dovrebbe essere l'occasione per risparmiare, non per spendere di più, invece si va nella direzione opposta e questo è molto negativo. Per quanto riguarda capitoli che negli ultimi anni hanno mostrato molte criticità, sanità e scuola, voi cosa proponete? Proponiamo di allinearci alla media europea, nel senso che noi siamo sotto la media europea sia per i finanziamenti alla sanità che per i finanziamenti all'istruzione, quindi noi proponiamo di arrivare alla sanità ad esempio al 7% del PIL, oggi siamo tra 6,2 e 6,3, quindi dobbiamo recuperare qualcosa come 10-12 miliardi di euro per poter arrivare appunto al 7%. Abbiamo avuto un finanziamento maggiore durante la pandemia per forza di cose, ma poi diciamo sostanzialmente tutto questo si è fermato e siamo tornati a una sorta di definanziamento della sanità pubblica, perché anche se gli importi rimangono gli stessi, i bisogni aumentano e poi c'è l'inflazione e quindi diciamo gli stessi soldi non significano in realtà meno soldi, perché con l'inflazione ormai all'8-9% gli stessi soldi significa che possiamo pagare meno servizi e meno interventi. Lo stesso per la scuola. La scuola noi abbiamo una percentuale bassissima, intorno al 3,5%, dobbiamo assolutamente finanziare interventi che vadano nella direzione di costruire un sistema formativo il più possibile gratuito, con le borse di studio, con le residenze per gli studenti che vanno a studiare fuori dalla loro città in altre università, eccetera, eccetera. Quindi c'è tanto da fare e quello che proponiamo noi è di portare almeno al 5% del prodotto interno lordo la spesa per l'istruzione nel nostro paese. E ricordo che siamo penultimi come numero di laureati nell'Unione Europea, ci batte solo in negativo la Romania. Abbiamo un numero di una percentuale di iscrizione scolastica ancora molto molto alta, superiore al 10%, e quindi dobbiamo intervenire per colmare questi divari e per riportare l'istruzione al centro di un sistema diciamo di formazione che metta al centro la cittadinanza, i diritti e naturalmente anche il ruolo che può avere per un modello di sviluppo diverso.